Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Problemi nel centrodestra, il presidente della regione Sicilia, Raffaele Lombardo, ha azzerato la giunta. La Corea del Nord sfida l'ONU e compie un altro test nucleare, lancia 3 missili. Condanna da parte della Cina, Barack Obama dice, è una minaccia alla pace mondiale. Eco internazionale per le polemiche sui rapporti fra Berlusconi e Noemi, il premier alla CNN, spiegherò la situazione, gli italiani saranno con me, poi attacca i giudici e la sinistra. Appello del presidente della Camera Fini, fare le riforme ma in modo condiviso. Nuova riunione del governo tedesco sul caso Opel, la grande coalizione spaccata sulla scelta dell'acquirente. Domani Marchionne a colloquio con la Merkel. Sparatoria ieri sera a Milano, vittima un pregiudicato legato all'andrangheta. Hanno tentato di rapire una bambina di 11 anni, arrestati a Napoli 5 nigeriani. Rapporto ACI, crescono dell'8% le multe in città, la metà sono per chi ha violato le zone a traffico limitato e le targhe alterne. Giro d'Italia oggi, tappa fondamentale tutta marchigiana, molti chilometri, molte montagne. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. E una buona giornata da Simone Spezia. La notizia è arrivata pochi minuti fa, è stata battuta pochi minuti fa dalle agenzie. Il presidente della regione Sicilia, Raffaele Lombardo, ha annunciato in una conferenza stampa di aver azzerato la giunta da lui presieduta. La decisione del presidente della regione Sicilia fa seguito ad aspre polemiche all'interno della maggioranza di centrodestra che sostiene la coalizione, della quale fanno parte anche il PDL e anche l'UDC in questo caso. Ho chiesto a tutti gli assessori di presentare le dimissioni, ha detto Lombardo, perché stare in questo governo significa non sabotarlo. Questa casa va rasa al suolo e ricostruita. Il governatore ha poi rilanciato l'ipotesi, che era stata già ventilata nei giorni scorsi, di un governo istituzionale aperto anche al Partito Democratico. Propongo un governo, ha detto Lombardo, con quei pezzi di partito che ci staranno. E vedremo poi e cercheremo di approfondire anche nel corso della giornata e di capire anche quali saranno le reazioni politiche a questa decisione. Adesso ci spostiamo sulla diplomazia internazionale, Alessandra. Sì, perché questa mattina è stato compiuto un test atomico sotterraneo dalla Corea del Nord, il secondo dopo quello dell'ottobre del 2006. Di seguito sono stati lanciati in tempi diversi 3 missili a corta gittata. Tutto questo avviene dopo che le Nazioni Unite avevano già duramente condannato Pyongyang per il lancio di un missile satellite in orbita dal 5 aprile. Ricostruiamo dunque cosa è successo oggi e cosa c'è dietro questa nuova mossa della Corea del Nord. In diretta da Pechino, Antonio Talia. Antonio. Buongiorno. Dunque, erano le 10 del mattino di oggi, le 3 ore italiana, quando la Corea del Nord ha effettuato un nuovo test nucleare in una zona non precisata, ma che dovrebbe più o meno coincidere con Lamgyeong, che è una remota provincia nel nord del paese, che era già stato il teatro del primo test nucleare di Pyongyang nell'ottobre del 2006. I sismografi dei cugini nemici della Corea del Sud hanno registrato un terremoto pari al grado 4.5 della scala Richter, e poi subito dopo Pyongyang ha annunciato ufficialmente che i test erano una risposta per difendere la sovranità nazionale. In pratica la Corea del Nord ha mantenuto la promessa che aveva fatto il 29 aprile scorso, quando aveva giurato una risposta alla condanna della comunità internazionale e dell'ONU in merito al lancio del missile che aveva effettuato il 5 di aprile e che aveva superato il Giappone e si era inabissato nel Pacifico. Quali le ragioni? Ci sono diversi scenari. Sicuramente si sta mettendo alla prova i nervi dell'amministrazione Obama. Contemporaneamente i cugini, i rivali della Corea del Sud hanno da diverso tempo con la nuova amministrazione tagliato gli aiuti verso la Corea del Nord, aiuti peraltro mai richiesti dal dispotico regime di Pyongyang. Però secondo moltissimi analisti statunitensi, secondo appunto gli americani, quello a cui stiamo assistendo è una transizione nel regime della Corea del Nord. Dopo appunto l'attacco che aveva colpito Kim Jong-il nell'agosto scorso, si è visto sempre più spesso al suo fianco il cognato Yang Seon-taek, che è anche entrato ufficialmente nella Commissione Nazionale di Difesa, cioè l'organo più importante di tutto il paese, e quindi potrebbe nel breve periodo, se appunto le condizioni di Kim Jong-il continuassero a essere condizioni condizioni appunto di salute negative potrebbe assumere lui in controllo, ma su quello lungo potrebbe essere una sorta di reggente che guida la successione nel regime il figlio minore di Kim Jong-il, Kim Jong-un, che ha soli 26 anni. Ovviamente è stata unanime la condanna da parte della comunità internazionale. Sì, Antonio, soprattutto in questo caso è intervenuta anche la Cina in maniera molto forte, oltre che gli Stati Uniti naturalmente. Esatto, la condanna della Cina è stata battuta meno di un'ora fa. La Cina, ricordiamo, è l'unico alleato della Corea del Nord. Il Ministero degli Esteri cinese ha reagito meno di un'ora fa con un comunicato laconico ma molto fermo, con cui condanna risolutamente il nuovo test e si dice fortemente contrario appunto all'escalation di Pyongyang. Le altre reazioni sono state unanimi. Obama appunto ha detto che i test rappresentano una minaccia per la pace e giustificano un'azione da parte della comunità internazionale. Il ministro degli esteri Frattini ha parlato di una provocazione pericolosa, così come anche il appunto Javier Solana. Gli unici appunto a mantenere una reazione neutra sono stati gli iraniani, i quali hanno detto che questo nuovo test non li riguarda. Grazie allora ad Antonio Talia, collegato con noi da Pechino. Tra l'altro, un altro test militare sta creando qualche problema ai rapporti diplomatici fra Italia e appunto Iran, che veniva citato poco fa. Sì, perché la scorsa settimana, lo ricorderete, il ministro degli esteri Frattini ha annullato la visita a Teheran il giorno stesso della partenza, dopo che l'Iran aveva sperimentato un missile a lunga gittata in grado di colpire Israele. Il presidente Ahmadinejad aveva fatto sapere di voler incontrare Frattini a Seman, che era proprio il luogo del test militare. Oggi il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha detto: l'Italia ha una grande civiltà e non dovrebbe lasciarsi influenzare da altri. La visita che Frattini avrebbe dovuto compiere il 20 e il 21 maggio sarà riprogrammata per un altro momento. La replica della Farnesina non si è fatta attendere. Non ci facciamo condizionare, ha detto Frattini. Abbiamo le nostre profonde convinzioni, ma abbiamo anche degli obblighi internazionali ed europei che dobbiamo mantenere. E sta avendo echi internazionali anche un'altra vicenda politica di casa nostra, ossia le polemiche sui rapporti fra Silvio Berlusconi e Noemi Letizia. Il premier è stato intervistato su questo anche dalla CNN. Ce ne parla in diretta da Roma Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno ai nostri ascoltatori. 20 minuti di intervista al Presidente del Consiglio, dai temi di politica internazionale alle recenti vicende private che hanno coinvolto Berlusconi. Il colloquio della CNN con il Cavaliere a tutto campo, con una certezza che trapela da parte di Berlusconi: giornali, giudice e sinistra mi attaccano in tutti i modi, dice, ma gli italiani sono con me e lo resteranno anche in futuro. Su due casi in particolare si sofferma il leader del PDL con la CNN, la vicenda Noemi e quella giudiziaria dell'avvocato Mills. Su Noemi Berlusconi dice: spiegherò esattamente la situazione, avrò ancora tutti gli italiani con me, e un'altra volta questa accusa sarà un boomerang per chi me l'ha rivolta. Non c'è nulla di nulla che sia minimamente negativo, spiega il Presidente del Consiglio. È indegno, dice ancora Berlusconi, il comportamento di chi entra in una vicenda privata per farne motivo di attacco politico. Il caso Mills, poi, Berlusconi parla di una sentenza scandalosa. I giudici di sinistra, dice ancora il Premier, l'avevano scritta prima del processo. Questi non sono giudici, conclude il Cavaliere, ma militanti politici che usano il potere giudiziario a fini di lotta politica. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. Noi andiamo avanti con un'altra questione politica. Sì, il nuovo appello di Gianfranco Fini affinché si facciano riforme condivise. Sentiamo. La Costituzione italiana rappresenta una bussola insostituibile per il nostro Paese. Nei momenti più difficili ha fatto in modo che l'unità nazionale prevalesse sulle spinte particolaristiche delle ideologie, sugli egoismi di categoria e sulle rivendicazioni territoriali. È il Presidente della Camera a sottolineare ancora una volta l'attualità della nostra Carta Costituzionale, soprattutto della prima parte, quella relativa ai principi fondamentali. Fini ritiene invece necessario riformare la seconda parte e il suo auspicio è che ciò possa avvenire in questa legislatura e con il concorso di tutte le forze politiche. Mi auguro che il superamento del cosiddetto bicameralismo perfetto, la riduzione conseguente del numero dei parlamentari, la ridefinizione equilibrata dei rapporti tra potere esecutivo e potere legislativo non siano bandiera dell'uno oppure dell'altro schieramento politico, ma siano piuttosto riforme condivise la cui realizzazione contribuirebbe ad accrescere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni repubblicane. Un appello, quello di Fini, lanciato stamattina nel corso di un convegno che ha preceduto l'inaugurazione della mostra sulla Costituzione, che sarà aperta al pubblico da oggi pomeriggio al 10 giugno a Montecitorio, nella Sala della Lupa, dove è stato esposto per la prima volta il testo originale della Carta con le firme di De Nicola, Terracini e De Gasperi. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore. Torre Roma. E un intervento per superare la conflittualità politica è stato fatto questa mattina dal Presidente della Repubblica Napolitano, che ha detto: le mie responsabilità sono spesso ardue, ma svolgo le funzioni con il primario interesse di rafforzare l'unità nazionale e la coesione, al di là appunto della conflittualità politica che attraversa la nostra stagione e non solo questa. A proposito in qualche modo di conflittualità politica, parliamo di quella che c'è in questo momento all'interno del governo tedesco. Di cosa parliamo, Alessandra? Parliamo del tentativo di acquisire Opel da parte di tre concorrenti in gara, ormai ne stiamo parlando da diversi giorni. Sì, oggi dovrebbe esserci un nuovo incontro del governo tedesco, almeno questo ci risultava fino a ieri, che lo ricordiamo darà un parere seppur non vincolante, visto che la scelta finale spetta alla casa madre, la General Motors. E poi, sempre in agenda, c'è un incontro di Sergio Marchionne con il cancelliere tedesco Angela Merkel. Collegato con noi da Francoforte Beda Romano. Beda, allora, in questi giorni sono tante le indiscrezioni di stampa su quale potrebbe essere l'orientamento del governo di Berlino, che tra l'altro però su questo sembra essere spaccato. Come stanno le cose? Beh, il governo è spaccato fondamentalmente perché questo è un anno elettorale. È un anno, si vota in settembre per il rinnovo del Bundestag, e il governo attualmente in carica è un governo molto molto particolare, perché raggruppa i due grandi partiti popolari, i democristiani e i socialdemocratici, che non hanno il compito di governare insieme tendenzialmente, sono grandi concorrenti, e in questa vicenda hanno deciso fondamentalmente di avere due posizioni diverse. I socialdemocratici hanno preso posizione insieme ai sindacati contro l'ipotesi di Fiat e a favore dell'ipotesi Magna, che è un produttore austro-canadese di componenti per auto. Mentre i democristiani della signora Merkel e del ministro dell'economia Gutenberg sono più neutri e forse tendenzialmente a favore di Fiat. Il problema è che il tempo è tiranno, la decisione deve essere presa il più rapidamente possibile. Il governo ha deciso che dovrebbe prenderla entro metà settimana e capiremo un po' meglio fra domani e dopodomani quale sarà l'orientamento definitivo del governo. Grazie Beda Romano. Chiudiamo questa parte del nostro GR Extra Large. Il 25 maggio è una data importante per gli appassionati di fantascienza. Che succede? In tutto il mondo si ricorda uno scrittore amatissimo e molto molto eccentrico. A cosa serve un asciugamano? È forse l'oggetto più utile che un autostoppista galattico possa avere. Il perché lo si legge in una delle serie di libri di maggior culto tra gli appassionati di fantascienza e del popolo della rete, La Guida Galattica per gli autostoppisti. È un fatto importante, ancorché comunemente noto, che le apparenze molto spesso ingannano. Per esempio, sul pianeta Terra, l'uomo ha sempre pensato di essere la specie più intelligente del pianeta, quando invece era la terza. Solo i fan, tanti e pazzamente innamorati della saga nata inizialmente alla radio, possono capire che un asciugamano può tenere caldo mentre si attraversano i freddi satelliti di Giaglambeta o ci si può sdraiare sulle spiagge dalla brillante sabbia di marmo di Santraginus V a inalare gli inebrianti vapori del suo mare, eccetera, eccetera. Secondi in ordine di intelligenza, i delfini, i quali, alquanto singolarmente, erano a conoscenza da tempo dell'imminente distruzione del pianeta Terra. L'ultimo messaggio in assoluto venne interpretato come un incredibilmente sofisticato tentativo di doppio salto mortale rovesciato nel cerchio fischiando l'inno americano. Ma in realtà il messaggio era questo: addio e grazie per tutto il pesce. Se oggi vedete asciugamani appesi alle finestre oppure persone apparentemente normali girare proprio con un asciugamano, è perché in tutto il mondo il 25 maggio è il Towel Day. È il modo in cui i fan si riconoscono e presentano ogni anno il loro tributo allo scrittore Douglas Adams, morto a 49 anni nel maggio 2001. Il motto che lega gli appassionati è Don't Panic, niente panico. E se si pensa che la serie è estremamente divertente e ci spiega che la Terra era un pianeta fondamentalmente innocuo, capirete perché potete considerare quei tizi con l'asciugamano forse un po' eccentrici, un po' nerd, ma molto, molto spiritosi. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13:18 minuti, 16 secondi nella prima parte del GR Extra Large. Vi abbiamo dato la notizia arrivata in mattinata da poco dell'azzeramento della giunta siciliana da parte del presidente Raffaele Lombardo. Abbiamo parlato del nuovo test nucleare da parte della Corea. Abbiamo parlato della nuova intervista di Silvio Berlusconi con la CNN per parlare anche del caso Noemi e delle trattative di Fiat. Adesso andiamo a Napoli. Andiamo a Napoli per una storia con alcuni lati ancora oscuri. È la storia di un mancato rapimento. E allora ci colleghiamo appunto con Napoli in diretta. Enzo Danna. Sì, buongiorno. È successo ieri sera, anche se in realtà solo questa mattina se n'è avuta notizia, in uno dei vicoli del popolare quartiere Vicaria nel centro storico della città. Una bambina di 11 anni stava giocando in strada sotto casa con alcuni coetanei quando sarebbe stata accerchiata da un nutrito gruppo di nigeriani, almeno una decina, tra loro anche due donne, una delle quali avrebbe afferrato la piccola per il collo per costringerla ad entrare in un basso adiacente. Le urla della bambina hanno attirato l'attenzione della madre, che prima ha chiamato in soccorso il figlio 14enne, poi con una mazza da baseball che aveva in casa ha cercato di difendere la figlia. Poco dopo sono arrivati gli agenti, che erano stati avvertiti di una rissa in corso. Alcuni extracomunitari sono fuggiti, la polizia ne ha fermati 5 di età compresa tra i 21 e i 25 anni, e per tutti l'accusa è proprio di tentato sequestro di persona e violazione delle leggi sull'immigrazione. Ora si sta cercando di rintracciare gli altri nigeriani che avrebbero preso parte a questo presunto tentativo di rapimento. Da Napoli ho concluso e vi restituisco la linea. Grazie Enzo Danna, e noi restiamo sulla cronaca e andiamo a Milano, nel quartiere di Quarto Giaro, dove due killer sono entrati in un bar e hanno aperto il fuoco, morto e 3 feriti. A tutti i contorni di una vera e propria esecuzione, quella messa a segno ieri sera poco prima delle 10 nella periferia sud di Milano, quartiere di Quarto Giaro. Due sicari incappucciati hanno fatto irruzione in un bar e hanno aperto il fuoco contro Franco Crisafulli, 57 anni, pregiudicato, fratello dei più noti Alessandro e Biagio, entrambi condannati all'ergastolo. L'uomo, morto durante il trasporto in ospedale, è stato raggiunto da almeno 4 colpi, alcuni dei quali alla faccia, segno, secondo gli investigatori, che si è trattato di un regolamento di conti. Ferite, una in modo grave, altre 3 persone che si trovavano con lui, 2 italiani e un albanese. Non è la prima volta che il clan Crisafulli, stabilitosi a Quarto Giaro fin dagli anni 70-80, si rende protagonista di omicidi. Omicidi che hanno insanguinato il quartiere, più volte teatro di guerra per il mercato della droga. Maria Luisa Pezzali, GR 24, Il Sole 24 Ore. E quello di ieri sera è stato l'ultimo di una lunga serie di episodi criminali che rivelano l'infiltrazione mafiosa a Milano. Il livello di guardia si deve alzare, dice Giulio Cavalli, attore, voce nota del Teatro Civile, sotto scorta per i suoi spettacoli di denuncia sulla mafia. L'ultimo si intitola appunto Mafia al Nord. L'ho intervistato sempre Maria Luisa Pezzali. Se prima era un'infiltrazione mafiosa molto liquida che si ritrovava negli appalti e nelle fatture, episodi come quello di ieri dimostrano poi in realtà che il livello di guardia si deve alzare, perché stiamo avendo anche tutte le conseguenze, anche quelle più eclatanti, che erano tipiche invece delle zone del sud. Poi la Lombardia è una regione che è sempre stata bravissima a dimenticare in fretta, però è stata la regione regina in Italia dei sequestri di persona per opera di Cosa Nostra e delle mafie. Semplicemente per un motivo che continua a sfuggirmi, diventa comodo delegare il problema e i protagonisti del fenomeno tutti al sud. Tu per i tuoi spettacoli sei sotto scorta, hai ricevuto delle intimidazioni mafiose. Perché un attore arriva a far paura alla mafia? Perché in un momento in cui l'informazione e la politica, certa informazione e certa politica, favoriscono il sotterramento del fenomeno mafioso e ne alimentano la tranquillità, riacquista valore la parola anche sotto la forma teatrale, che serve a continuare a raccontare per tenere una memoria attiva e soprattutto per dimostrare che il re è comunque nudo e lo stiamo osservando. Allora, stiamo parlando di Milano e stiamo parlando di una criminalità organizzata, ossia l'Ndrangheta che ha le sue mani soprattutto sul traffico di droga. E proprio di droga e di Milano parliamo adesso. Sì, perché il consumo di cocaina a Milano è veramente altissimo. La prima sniffata attorno ai 15 anni, poi verso i 30 anni l'infarto. 40.000 consumatori abituali nell'ultimo anno, un giro d'affari pari a 1 miliardo di euro. Questa dunque la fotografia di una generazione di milanesi devastata dall'uso di cocaina. E ora naturalmente il problema si riflette sui servizi sociali. I primi ad andare in tilt sono i SERT, appunto i servizi delle tossicodipendenze, che con i loro 4.300 posti l'anno non riescono più a far fronte alle richieste d'aiuto e mettono in lista d'attesa i tossicodipendenti. È un mondo con il quale dobbiamo fare i conti e che ci spiega, queste sono parole di Don Gino Rigoldi, che la repressione non risolve il problema. E allora sentiamo Rigoldi al microfono di Cristina Carpinelli. I SERT vanno in tilt. Non per la disintossicazione, ma chi si fa di cocaina il più delle volte arriva ai servizi quando c'è un incidente, non perché è un tossicomane, ma se non è, che non è uno star male, un cascar per terra, un infarto. Proprio il mio amico che è in un ospedale del San Carlo mi diceva che inferiori ai 40 anni di infartuati sono, ma più della metà sono cocainomani. E poi ci vogliono dei posti che intercettino in maniera molto soft questi, perché un cocainomane non ha coscienza di essere un tossicomane. Ci vogliono dei posti che non abbiano proprio l'etichetta CERT, per esempio. Il CERT si va quando uno ha preso coscienza e poi sta, oppure perché sta male. I servizi prima devono essere perché dei posti uno sa che se incomincia ad avere qualche dubbio, se incomincia ad avere qualche segnale che non funziona, li può andare tranquillamente e nessuno lo scrive, lo etichetta, lo denuncia, non so cosa roba lì. C'è bisogno di servizi di intercettazione, anche direi, come si dice, c'è un po' preventiva, ecco. Tutt'altro argomento, il nostro quotidiano appuntamento con il Giro d'Italia. Dario Ceccarelli, dove andiamo oggi? Oggi andiamo nelle Marche, una tappa tutta marchigiana tra Urbino e così paesaggi proprio tipici italiani. Però di dolce non c'è molto, perché in realtà sarà una tappa molto aspra, piena di montagne, di saliscendi, e soprattutto sarà una tappa che potrebbe mettere, non la parola fine, però dare una virata di boa a questo giro che per il momento è ancora un po' confuso. Menchov è la maglia rosa, è russo, dietro c'è Di Luca a 35 secondi, poi c'è Leigh Palmer e Ivan Basso che tenta di ribaltare tutta la classifica. Ieri ha fatto una grande azione, però si sono alleati tutti contro di lui, perché fa ancora paura nonostante i 3 minuti di svantaggio. Però oggi si attende un nuovo attacco e quindi quello che è un giro un po' ingessato potrebbe diventare un giro invece esplosivo. Dario, questo benedetto Di Luca qualche possibilità ce l'ha oppure no? Ecco, qui è la domanda che si fanno. Intanto vabbè, fra poco andremo in Abruzzo e questo magari il calore della terra in un momento poi così particolare potrebbe dargli un po' di energia in più. Lui ha 34 secondi. Ieri secondo me avrebbe dovuto lasciare che il russo rimanesse così da solo a far fronte all'attacco di Ivan Basso e quindi saltando il russo poi avrebbe avuto anche lui più possibilità. Aiutandolo, andando a prendere Ivan Basso, a un certo punto ha neutralizzato l'attacco di Basso, ma anche ha lasciato il russo sul trono, per cui è un po' confuso nell'azione, mi sembra meno lucido dei giorni scorsi, però oggi può succedere di tutto. Sentiremo dunque che cosa accadrà oggi pomeriggio nel corso dei GR e anche e soprattutto con l'appuntamento allo speciale con il Giro d'Italia, Voci dal Giro, che va sempre in coda al GR delle 19. Oltre che la consueta breaking news all'arrivo della tappa che facciamo come sempre, quindi continuate a seguirci. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. I problemi nel centrodestra, il presidente della Sicilia Raffaele Lombardo azzera la giunta, disposto anche ad alleanze col PD. La Corea del Nord sfida l'ONU e compie un altro test nucleare e lancia 3 missili. Condanna da parte della Cina, Barack Obama dice una minaccia alla pace mondiale. La vicenda Noemi, Berlusconi alla CNN, spiegherò la situazione, gli italiani saranno con me. Poi attacca i giudici e la sinistra. Nuova riunione del governo tedesco sul caso Opel, la grande coalizione spaccata sulla scelta dell'acquirente. Domani Marchionne a colloquio con la Merkel. Avrebbero tentato di rapire una bambina di 11 anni, arrestati a Napoli 5 nigeriani. Rapporto ACI, crescono dell'8% le multe in città, la metà sono per chi ha violato le zone a traffico limitato e le targhe alterne. Giro d'Italia, oggi una tappa fondamentale, tutta marchigiana, molti chilometri, molte montagne. E allora parliamo dell'argomento, uno degli argomenti più odiati dai cittadini italiani, ossia le multe. In città nel 2008 hanno avuto un incremento notevole, una crescita di poco inferiore all'8% per un totale di più di 12 milioni di verbali. Sono dati che emergono dal secondo forum internazionale delle polizie locali organizzato dall'ACI, l'Automobile Club d'Italia. Buongiorno ad Enrico Gelpi, presidente appunto dell'ACI. Buongiorno a lei. Allora, presidente, qual è l'infrazione che gli italiani commettono di più? Ma sono le violazioni relative all'inosservanza degli obblighi della circolazione nel centro abitato, quindi sostanzialmente la fermata e la sosta in ambito urbano. Quindi questo dimostra ovviamente anche la criticità della circolazione nelle nostre città. Allora, diamo qualche numero, Alessandra, no? Oltre 6 milioni e mezzo di multe per le zone a traffico alimentato, mancato rispetto delle targhe alterne, 2 milioni 200 mila divieti di sosta, 227 mila mancata osservanza di limiti di velocità, 167 mila mancati documenti di circolazione o incompleti, 118 mila mancato rispetto dei semafori, dello stop, eccetera, e 114 mila mancato uso dell'auricolare e simili. Insomma, ce n'è per tutti, presidente Gelpi. Sì, ce n'è per tutti e soprattutto sono infrazioni che incidono anche sulle incidentalità in ambito urbano. Infatti, secondo la nostra inchiesta, 3 incidenti su 4 avvengono in città. È per questo che è necessario un controllo, un presidio del territorio da parte delle polizie locali, soprattutto in termini di prevenzione e non tanto per far cassa. Ecco, proprio a proposito di questo, presidente, questa è una grande lamentela che arriva dai cittadini. I comuni hanno pochi soldi, i fondi scarseggiano e quindi, diciamo, sfruttano questo fatto delle multe per avere qualche quattrino in più. Dov'è la via di mezzo e come si può risolvere? La via di mezzo è che questi strumenti come l'autovelox debbano essere utilizzati veramente per prevenire l'incidentalità e come dicevo prima non per far cassa. Purtroppo ci sono molti comuni, soprattutto quelli piccoli, che hanno tanti autovelox, ma per esempio pochissimi o quasi nulli le chilometri, che invece sono molto importanti per assicurare che chi sta guidando sia in condizioni psicofisiche per una guida prudente. Lei tra l'altro sostiene che serve una sorta di codice europeo della strada. In che cosa consiste e perché questa necessità? Beh, intanto per avere regole uniformi, perlomeno in Europa, quindi regole di comportamento da parte non solo degli automobilisti ma ovviamente di tutti gli utenti della strada, per avere un sistema omogeneo di sanzioni, una segnaletica anche omogenea e soprattutto la possibilità di che queste sanzioni vengano effettivamente combinate, perché per esempio in Italia succede molto spesso che conducenti stranieri, se non pagano, diciamo, la multa perché gli viene contestata subito, poi difficilmente i comuni italiani possono recuperare all'estero le somme dovute per le infrazioni stradali. Ecco, quindi anche migliorare questa collaborazione a livello europeo tra le polizie locali. Senta Gelpi, un'ultimissima domanda. Fra le multe, insomma, per gli eccessi di velocità, bisogna anche segnalare che la segnaletica italiana è a volte assurda. Insomma, il divieto di andare oltre 10 km all'ora spesso è francamente impossibile da rispettare, cosa che non avviene all'estero. Allora c'è anche un problema per quanto riguarda i limiti di velocità. C'è un problema anche di segnaletica sicuramente che non è efficiente. Poi molto spesso quella segnaletica a cui faceva riferimento lei viene posizionata in occasione di lavori stradali e poi viene lasciata lì quando i lavori stradali sono finiti. Quindi ovviamente sono limiti che non si possono rispettare, no? Perché sono limiti irreali. Quindi bisogna rivedere anche il sistema dei limiti nei centri urbani, nelle strade extraurbane, ma soprattutto curare meglio e rendere più efficiente e più visibile e più chiara la segnaletica. Questa è veramente l'ultima, Gelpi. Allora, dai vostri dati emerge che ogni agente di polizia municipale d'Italia eleva ogni anno 480 contravvenzioni, praticamente una e mezza al giorno. Ci sono città come Roma che contano una contravvenzione per abitante, donne e bambini compresi, ma insomma non sarà un pochino troppo, francamente? Come tutte le medie, ovviamente sono dati che devono essere presi con attenzione, però in realtà il dato globale è quello, quindi vuol dire che c'è una grande attività da parte, diciamo, degli agenti di polizia locale e quindi c'è un grande numero di sanzioni elevate, perché abbiamo rilevato totale sono oltre 12 milioni e mezzo, insomma, quindi è un dato molto significativo. Grazie ad Enrico Gelpi, presidente dell'ACI Automobile Club d'Italia, per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a voi. Ci spostiamo ora a Busto Arsizio, dove si sta svolgendo la riunione degli industriali, e ci colleghiamo in diretta con Stefano Totoro, che ne sta seguendo i lavori. Stefano. Sì, buongiorno, buonanotte ascoltatori. Il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia ha appena concluso il suo discorso, durato quasi un'ora, un appello al sistema bancario per garantire maggiore accesso al credito, un appello al governo per accelerare le riforme, ma soprattutto un appello ai lavoratori per mantenere salda la coesione sociale. Queste più o meno le tematiche affrontate dal presidente di Confindustria, così come è stata affrontata anche la crisi economica. Dalla crisi, ha detto Emma Marcegaglia, stiamo uscendo, ma il percorso è ancora lungo, e questo percorso, secondo il presidente degli industriali, ha bisogno dell'aiuto delle banche, che devono garantire più ossigeno alle imprese, del governo, che deve tagliare la spesa pubblica, intervenire sugli enti inutili e soprattutto far partire subito investimenti sulle infrastrutture. Noi, ha detto Emma Marcegaglia, per il momento questi fondi non li abbiamo visti, ma dicevamo, gran parte dell'intervento è stato incentrato sulla coesione sociale. Gli imprenditori non possono subire atteggiamenti dirigistici da parte dei sindacati, ha detto Emma Marcegaglia, ed è chiaro il riferimento al recente strappo con la CGIL, che il presidente di Confindustria invita però alla collaborazione. È importante che in un momento come questo si lavori tutti insieme. Un grazie al ministro dell'Interno Roberto Maroni, che era in platea, per quanto sta facendo in materia di sicurezza. E proprio Maroni, prima di entrare al convegno, a margine del convegno, ha voluto rilasciare una dichiarazione proprio in tema di immigrazione, che sentiamo. Non sull'immigrazione, ma sulla politica dei respingimenti, che ha determinato un grande risultato. Da quando l'abbiamo attuata, dal 7 di maggio, non è più arrivato nessun barcone. Era quello che volevamo fare, è il risultato che volevamo ottenere, ci abbiamo lavorato molto e sono molto soddisfatto che questo risultato sia stato raggiunto, conseguito, così come abbiamo promesso in campagna elettorale. E spiegherò oggi che questa è una decisione che abbiamo preso nel rispetto di tutte le regole, e che continueremo a farlo fino a che sarà necessario. E grazie Stefano Totoro, in collegamento con noi da Busto Arsizio, provincia di Varese, dove si sta svolgendo l'assemblea dell'Unione degli Industriali, appunto, della provincia di Varese. Oggi all'Aquila riaprono due reparti dell'ospedale San Salvatore, chiuso dopo il terremoto del 6 aprile, ma è il decreto per la ricostruzione a far discutere in città. Sì, questa mattina il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, è tornato a parlare del provvedimento approvato al Senato, che prevede un contributo del 100% per la ricostruzione della prima casa. Lo ha intervistato Micaela Nasca. Noi abbiamo preso in considerazione il decreto come è uscito dal Senato. Si parla delle case che verranno restituite, le case per i residenti. Cioè chiediamo che vengano dati soldi non solo ai residenti, ma a tutte le case di proprietà, perché i residenti in alcuni comuni miei sono 90 persone ormai. Secondo, non abbiamo i soldi per noi, cioè non c'è scritto che ai comuni viene data una copertura. La terza cosa è la zona franca. In commissione era andata 45 milioni l'anno per ripartire, adesso è diventata 45 milioni in 4 anni. Allora noi ci chiediamo, se ci stanno tutti i soldi, come mi ha assicurato Berlusconi, perché questa cosa? Quando questa è una città altrimenti che è destinata a morire, noi sindaci chiediamo che il decreto venga modificato. Bertolaso ha detto che il decreto deve essere valutato solo come quadro di riferimento normativo e non come salvadanaio. Nell'ambito dei quadri esistono le miniature e gli affreschi. Io mi fido che Guido Bertolaso mi passi i soldi, però posso dire una cosa. Si mette nell'interno di un decreto legge delega che noi prendiamo i soldi e poi mi fido ciecamente che Bertolaso me li dà. Se vuole è una questione di principio, perché noi chiediamo dignità e rispetto. E proprio a proposito di ricostruzione parliamo di una storia finita bene, in questo caso ci riferiamo al terremoto che colpì il lago di Garda nel 2004. Un premio europeo al progetto per il restauro della chiesa dei Santi Faustino e Giovita a Fasano sul lago di Garda. Nato per valorizzare i beni culturali e architettonici d'Europa, questo è un premio al modello Garda, che così come il modello Umbro con il restauro in tempi da record alla Basilica di San Francesco d'Assisi dopo il terremoto del 97, potrà servire da esempio per la ricostruzione di chiese e monumenti danneggiati dal sisma in Abruzzo. Era la notte tra il 24 e il 25 novembre del 2004 quando una scossa di 5,2 gradi della scala Richter fece fece molti danni, ma per fortuna nessuna vittima. Diversi gli edifici e i beni culturali lesionati. Tra questi anche la chiesa dei Santi Faustino e Giovita di Fasano. A meno di 5 anni da quel 24 novembre il Garda è rinato e così la chiesa. Le sue ferite sono state risanate, ricomposte come un puzzle. L'architetto Rossana Bettinelli, artefice del progetto per il restauro. Ci siamo prima di tutto impegnati a fare un elenco di tutti i materiali per capire cosa si poteva fare. Alla fine, dove possibile, si è operata la ricostruzione filologica, ricomponendo e ricollocando i frammenti come fossero tessere di un mosaico. Ecco, il progetto è stato premiato in quanto è un modello esportabile a livello internazionale, con questa filosofia del dov'era com'era. Quale consiglio allora per il restauro dei beni culturali danneggiati in Abruzzo? L'obiettivo deve essere quello della conservazione o ripristino, com'era, dov'era, di tutti gli edifici storici, non soltanto di grande valore storico-artistico, ma anche solo testimoniale. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13:46 minuti, 42 secondi, parliamo adesso appunto di Pakistan. Pakistan, dove va avanti la battaglia fra le truppe regolari e i ribelli talebani, e l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati lancia l'allarme per le tante persone costrette alla fuga. Sono ormai 2 milioni e 400 mila le persone in fuga per gli scontri avvenuti nei distretti del Lawardiri, Buner e Swat in Pakistan. Ad aggiornare il bilancio giorno dopo giorno è l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, che lancia un appello alla comunità internazionale. Bisogna far presto, queste persone hanno bisogno di tutto. 200.000 sono alloggiate nei campi profughi, dove l'emergenza principale ora è il caldo, con temperature che toccano i 45 gradi. La maggior parte ha invece trovato ospitalità presso amici, parenti, in scuole e altri edifici pubblici. L'esercito governativo 2 giorni fa è riuscito ad entrare a Mingora, la principale città della Valle dello Swat, roccaforte dei guerriglieri integralisti islamici, che da giorni si fronteggiano con le truppe regolari, da quando, rispondendo anche ad una richiesta internazionale, è cominciata l'offensiva dell'esercito. La presa di Mingora, dove risiederebbe il massimo leader religioso talebano, è considerata fondamentale. Una volta riconquistata definitivamente, i militari potrebbero infatti avanzare fino ai confini con l'Afghanistan, nelle aree dove si ritiene ci siano esponenti di primo piano di Al-Qaeda. La battaglia è però aspra, si combatte casa per casa e nelle zone passate sotto il controllo dell'esercito si procede a liberare il territorio dalle mine antiuomo. Sul fronte opposto, poi, ci sarebbero numerosi talebani kamikaze pronti a farsi esplodere e che in molti casi si fanno scudo con i civili che non sono riusciti ad abbandonare la città. Katia Caramelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Restiamo nel mondo islamico per una decisione che riguarda le annunciatrici televisive in Arabia Saudita. Ce ne parla Adib Fateh Ali. Se intendono continuare a fare il loro lavoro, d'ora in poi le annunciatrici delle TV saudite dovranno portare la baia, ovvero il mantello islamico che copre tutto il corpo. Lo ha deciso il Ministero delle Informazioni con una circolare che impone alle anchor woman del regno di non far intravedere neppure un ciuffo dei loro capelli. Piena di contraddizioni questa emancipazione femminile nel mondo islamico. Poco giorni fa l'ingresso di 4 donne nel Parlamento del Kuwait aveva suscitato grandi entusiasmi, ma tra i deputati islamici c'è già chi ha annunciato che non si siederà mai accanto ad una collega che non porta il velo. È uno stop and go continuo quello delle donne arabe per vincere il loro gran premio di formula eguaglianza. Sentiamo oggi dove ci porta il nostro gastronauta Davide Paolini per la pausa pranzo. Mezzogiorno di Cuoco oggi vi porta a Cagliari, in un locale di un giovane chef importante, si chiama Roberto Pezzas, il locale si chiama Lisboa e offre 2 menù, un piccolo menù a 26 euro, quindi adatto a mezzogiorno, ma un grande menù alla sera di 38 euro, ovviamente vini esclusi. Diciamo le possibilità di scelta sono davvero molte, 4 antipasti, filetto di pesce azzurro marinati allo sesamo potrebbe essere, 4 paste e zuppa, cominciare dal succu e fa, crema di fave al finocchietto selvatico con gamberi arrostiti, oppure anche linguine di Gragnano con carciofi fini selvatici al rosmarino e bottarga di muggine, per finire con un pesce, filetti di pesce ripieni di gamberi agli agrumi arrotolati nel pane carasau. Bene, buona scelta di formaggi, buona scelta di vini. Lo ripeto, Lisboa a Cagliari dello chef Roberto Pezzas. GR Extra Large, riepiloghiamo rapidamente le principali notizie della giornata. Ci sono problemi nel centrodestra, il presidente della Sicilia Raffaele Lombardo ha azzerato la sua giunta, si dice disposto anche ad alleanze con il Partito Democratico e aggiunge nuovo governo della regione in 48 ore con chi ci sta. La Corea del Nord sfida l'ONU e ha compiuto questa mattina un altro test nucleare, ha lanciato anche 3 missili. Dagli Stati Uniti Barack Obama dice una minaccia alla pace mondiale, ma c'è anche una dura condanna da parte dello storico e unico alleato cinese. La vicenda Noemi, parla Silvio Berlusconi alla CNN, spiegherò la situazione, dice, e gli italiani saranno con me, poi attacca i giudici per il caso Mills e la sinistra. C'è una nuova riunione del governo tedesco sul caso Opel, la grande coalizione intanto però è spaccata sulla scelta dell'acquirente. Domani Marchionne ha colloquio con la Merkel. Avrebbero tentato di rapire una bambina di 11 anni, arrestati a Napoli 5 nigeriani. Ne abbiamo parlato a lungo nel corso di questo GR, il rapporto ACI, sono cresciute nel 2008 dell'8% le multe agli automobilisti in città. La metà sono per chi ha violato le zone a traffico limitato e le targhe alterne. Il Giro d'Italia oggi è una tappa fondamentale, tutta marchigiana, molti chilometri e molte montagne. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, curata e condotta da Alessandra Tedesco e da Simone Spezia. Al coordinamento Daniele Biacchessi, in regia Filippo Aureggi. Se volete scriverci potete farlo, extralarge@radio24.it, se volete riascoltarci www.radio24.it. Il prossimo giornale radio è alle 15, noi ci risentiamo domani alle 13. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.